listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your soul. For your brain. This is Oxygen. for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Soul. This is Oxygen. Thank you. questa è sempre Oxygen in voce con voi, Amptech. Abbiamo sentito una serie di tracce tratte da una raccolta, un triplo vinile uscito per Time Dance, la release 010, si tratta di TD10, semplicemente il nome della raccolta, che vede la presenza di moltissimi artisti che spesso e volentieri vi proponiamo. Abbiamo ascoltato senza soluzione di continuità una serie di brani. Il primo era di Piezo Yush, il secondo di Jazz, il terzo di Ski Mask e l'ultimo, ancora sotto la mia voce, è di Poligonia. E dopo Poligonia ci andiamo a sentire invece la nuova release, il nuovo singolo di R. Roxymore.

E dopo R. Roxymore abbiamo ascoltato la traccia Guilty Pleasures di PDQB con DMX Crew, che ha dato un tocco di electro alla nostra serata. Ma andiamo avanti con un altro autore abbastanza eclettico che si muove fra ritmi di amapiano e di breakbeat bass, che si chiama Edge. Soul. This is Oxygen. Thank you. è sempre Oxygen, in voce con voi Amptech. Andiamo avanti con il nuovo lavoro di Sargeon con James Ruskin, che si chiama Sound Pressure. You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. We'll be right back.